Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Il Monaco di Matthew Lewis nella versione di Antonin Artaud, traduzione di Ginevra Bompiani e Giorgio Agamben. Ambrosio, benché incalzato da vicino, era riuscito a riguadagnare la grotta. La porta era stata rinchiusa quando Don Ramirez arrivò sul posto e molto tempo passò prima che il nascondiglio del fuggitivo potesse essere scoperto, ma l'ostinazione degli arcieri ebbe ragione di quest'ultima astuzia. Per ben dissimulata che fosse, la porta non sfuggì alle ricerche degli inquisitori. La forzarono ed entrarono nella grotta con grande spavento di Ambrosio e della sua compagna. L'aspetto stravolto del monaco, i suoi sforzi per nascondersi, la sua fuga, i suoi vestiti macchiati di sangue, non lasciavano dubbi che si trattasse proprio dell'assassino di Antonia. Ma quando riconobbero in lui l'irreprensibile Ambrosio, l'uomo di Tio, l'idolo di Madrid, tutti i presenti furono paralizzati dalla sorpresa e faticarono a convincersi che non si trattava di un'allucinazione. Il priore non provò nemmeno a negare e si chiuse in un tetro silenzio. Lo afferrarono e lo legarono strettamente. La stessa precauzione fu presa con Matilde. Quando le fu tolto il cappuccio, la delicatezza dei suoi lineamenti e la folta capigliatura dorata tradirono il suo sesso. E questo incidente accrebbe ancora lo stupore generale. Il pugnale fu ritrovato nella tomba in cui il monaco l'aveva gettato. E dopo aver ancora perquisito tutto il sotterraneo, i due colpevoli furono condotti nelle prigioni dell'Inquisizione. Don Ramirez badò che il popolo restasse all'oscuro dei delitti e dell'identità dei prigionieri. Temeva che i disordini che avevano fatto seguito all'arresto della badessa di Santa Chiara si ripetessero e si contentò di mettere i frati cappuccini al corrente dei misfatti del loro superiore. Per evitare la vergogna di una pubblica accusa, nel timore del furore popolare, dal quale erano riusciti a salvare a stento il loro convento, i monaci si affrettarono a permettere agli inquisitori di perquisire il convento. Non vi furono nuove scoperte. Gli effetti trovati nella cella del priore e in quella di Matilde furono sequestrati e portati nel palazzo dell'Inquisizione per servire come mezzi di prova. A parte questo, tutto rimase come prima. E l'ordine e la calma tornarono a Madrid. Virginia non era certo la più avara dei ringraziamenti. Era suo desiderio non mostrarsi insensibile alle attenzioni dello zio di Lorenzo e conquistarsi la sua simpatia, e ci riuscì senza fatica. Il duca si accorse della sua bellezza con sorpresa e ammirazione, e se la sua avvenenza l'aveva colpito, la grazia delle sue maniere e l'affettuoso interesse che portava alla suora malata finirono di conquistarlo. Virginia era abbastanza intelligente per accorgersene e raddoppiò le sue attenzioni per l'inferma. Nel separarsene sulla soglia del palazzo di suo padre, il duca chiese l'autorizzazione di poter tornare a prendere notizie, ed essa vi consentì volentieri e gli assicurò che il marchese di Villafranca sarebbe stato felice di trovare un'occasione per ringraziarlo di persona della protezione che aveva accordato a sua figlia. Poi si salutarono, lui affascinato da tanta bellezza e da tanta dolcezza, e lei piena di simpatia per lo zio e soprattutto per il nipote. Rientrando in casa, il primo pensiero di Virginia fu di far chiamare il medico di famiglia e di prendersi cura della sconosciuta. Questa, la cui fibra aveva subito un duro colpo per le privazioni e le sofferenze, per qualche tempo non riacquistò conoscenza ed ebbe molta difficoltà a ingoiare le medicine che le venivano date. Ma una volta vinto questo ostacolo, superò facilmente anche la sua malattia, che non aveva altra causa che la debolezza. Virginia provava per lei un interesse molto vivo, ma quale non fu la sua gioia quando, ormai abbastanza ristabilita per raccontare la sua storia, la monaca prigioniera si rivelò non essere altri che la sorella di Lorenzo. Questa vittima della crudeltà monastica era proprio la sfortunata Agnese. Virginia l'aveva ben conosciuta al convento. ma la magrezza, i lineamenti alterati dal dolore, la voce universalmente accreditata della sua morte, i capelli lunghi e scompigliati che le cadevano in disordine sul volto e sul seno, l'avevano resa irriconoscibile. La badessa aveva fatto uso di tutte le sue arti per convincere Virginia a prendere il velo, perché l'erede dei Villafranca non era certo un acquisto da buttar via, e le sue manifestazioni di affetto e le continue premure avevano quasi raggiunto lo scopo. Ma Agnese, che conosceva bene le delusioni e la noia della vita monastica, si era subito resa conto dei disegni della superiora. Preoccupata per la sorte dell'innocente ragazza, si era data da fare per convincerla del suo errore. Le aveva dipinto nella loro vera luce tutti gli inconvenienti della vita di un convento, la costrizione incessante, le basse gelosie, gli intrighi meschini, la corte servile e la piaggeria grossolana che la badessa esigeva. Questi consigli avevano tolto a Virginia ogni voglia di prendere il velo, ma un altro argomento di cui Agnese non aveva fatto uso ebbe su di lei un peso maggiore di tutti gli altri. Aveva scorto Lorenzo quando era venuto a parlare con la sorella alla griglia del parlatorio. Ne era rimasta colpita e tutte le sue conversazioni con Agnese finivano immancabilmente con delle domande sul fratello. Agnese, che lo adorava, non chiedeva di meglio che avere un'occasione di tesserne le lodi. L'improvvisa scomparsa di Agnese fu un colpo molto duro per Virginia. La pianse sinceramente, come amica e come la sola persona che potesse parlarle di Lorenzo, ma il suo cuore continuò a essere divorato dalla passione e aveva quasi deciso di rivelare tutto a sua madre quando il caso le fece incontrare Lorenzo. Vedendoselo accanto così intrepido, così sensibile e così cortese, si sentì veramente avvampare di amore. Quando si accorse che la sua amica e consigliera le era stata restituita, interpretò questo fatto come un dono del cielo e osò nutrire la speranza di poter sposare Lorenzo, decisa ormai a servirsi dell'influenza della sorella. Supponendo che prima di morire Agnese avesse già fatto al fratello la sua proposta, il duca di Medina aveva creduto che tutti i progetti di matrimonio del nipote si riferissero a Virginia e li aveva perciò accolti col più grande favore. Tornando al suo palazzo, il racconto della morte di Antonia e della condotta di Lorenzo in quella circostanza gli fecero capire di essersi sbagliato. Compianse sinceramente la sorte di Antonia, ma dal momento che la povera ragazza era morta, puntò sulla riuscita del suo progetto. Per profonda che fosse la disperazione del nipote, era sicuro che il tempo e Virginia avrebbero saputo cancellarla. Corse al capezzale del ragazzo e cercò di consolarlo. Compatì il suo dolore, ma lo esortò a non abbandonarvisi. Mentre si adoprava a far dimenticare a Lorenzo la perdita di Antonia, il duca faceva una corte assidua a Virginia e non mancava un'occasione di vantarle i meriti del nipote. Si immaginerà facilmente che Agnese non lasciò trascorrere molto tempo prima di domandare notizie di Don Raimondo. Da una parte si rattristò apprendendo lo stato in cui il dolore l'aveva ridotto, ma dall'altra provò un segreto piacere al pensiero che la sua malattia confermava la sincerità del suo amore. Il duca stesso si prese la briga di annunciarne al malato la felicità che lo aspettava, benché avesse preso ogni precauzione per prepararlo alla sorpresa. La gioia di Raimondo fu così violenta che stava per costargli la vita. La tranquillità dell'anima si propagò a mano al suo corpo ed egli si ristabilì con una rapidità che lasciò tutti quanti di sasso. Lo stesso non si poteva purtroppo dire per Lorenzo. La morte di Antonia in circostanze così terribili aveva prodotto nella sua mente una paurosa impressione. La compagnia di Agnese era la sua sola consolazione. Benché il caso li avesse fino ad allora tenuti lontani, Lorenzo nutriva per lei un'amicizia del tutto indipendente dal suo affetto di fratello. Vedendo quanto gli fosse necessaria, Agnese lo lasciava solo il meno possibile. Ascoltava i suoi lamenti con una pazienza che non si smentiva un istante e, a furia di dolcezza e di ostinazione, riuscì a comunicargli un po' della serenità che, dopo tante prove, aveva finito col regnare nel suo animo. Abitava sempre nel palazzo dei Villafranca, che la trattavano come una seconda figlia. Il duca aveva messo al corrente il marchese delle sue intenzioni a proposito di Virginia. Il partito era impeccabile. Neanche a farla apposta, la proposta del duca fu accettata all'istante e tutte le precauzioni furono prese perché Lorenzo vedesse la sua futura sposa nella maniera più adatta a ispirargli i sentimenti che essa meritava. Le visite di Virginia si fecero sempre più frequenti e alla fine non ci fu più un solo giorno di cui non trascorresse una parte accanto a lui. A poco, Lorenzo riacquistò le forze, ma la sua convalescenza era lenta e incerta. Una sera, che sembrava più sollevato del solito, Agnese e il suo fidanzato, il duca, Virginia e i suoi genitori fecero cerchio attorno al suo letto. Per la prima volta egli pregò la sorella di raccontare come fosse riuscita a scampare agli effetti del veleno che Sant'Orsola l'aveva vista bere. Nel timore di ricordargli le circostanze della morte di Antonia, Agnese gli aveva fino ad allora taciuto la storia delle sue disavventure. Ma ora che lui stesso portava il discorso sull'argomento, pensò che forse il racconto delle sue disgrazie l'avrebbe distratto dalla sua ossessione e accondiscese immediatamente la sua domanda. Fine della storia di Agnese di Medina. La mia morte apparente fu preceduta da un'atroce agonia. Quegli istanti che io credevo essere gli ultimi della mia esistenza erano resi ancora più amari dagli urli della badessa che mi assicurava che non sarei sfuggita alla dannazione eterna. Perfino nel momento in cui i miei occhi si chiusero, sentii la sua stizza fiottare in imprecazioni contro la mia colpa, l'orrore di un letto di morte dal quale la speranza era bandita, di un sonno dal quale non dovevo svegliarmi che per precipitare tra furie e fiamme, supera ogni possibile descrizione. Quando rinvenni, ero ancora sotto l'impressione di queste immagini tremende e mi guardai attorno con terrore, temendo di trovarmi di fronte ai ministri della vendetta divina. Le nebbie del narcotico si erano completamente dissipate e mi parve di aver ritrovato tutta la mia forza. Mi alzai di colpo e cozzai atrocemente contro la griglia che chiudeva il mio sarcofago, ma nello stesso istante mi accorsi in un delirio di gioia che essa cedeva. La rovesciai con le mani su un lato della tomba e misi la testa fuori. Un odore nauseabondo e asfissiante mi bruciò le narici, non mi lasciai impressionare e allungai una mano al di fuori. Toccai una superficie spugnosa e molle, l'afferrai e l'avvicinai alla luce. Dio onnipotente, con quale orrore, con quale crampo di tutti i miei muscoli mi accorsi che si trattava di una testa umana, ancora riconoscibile malgrado il suo avanzato stato di putrefazione, malgrado i vermi che si aggrappolavano su ogni brandello di carne, e che era la testa di una monaca, di una mia compagna morta qualche mese prima. La gettai immediatamente lontano da me e ricaddi esanime sul mio sepolcro. Quando rinvenni per la seconda volta, mi misi a riflettere sulla crudeltà della mia situazione. Quel che soprattutto non riuscivo a spiegarmi era il fatto che la griglia fosse aperta e se l'avessero lasciata aperta a bella posta. Se qualcuno avesse voluto così prepararmi una via di scampo, aggrappandomi alle sporgenze della parete, la scalai e uscii dal sarcofago. Buttai un'occhiata tutto intorno. C'erano parecchie tombe, in tutto simili a quella che avevo appena lasciato, stavano affilate l'una dopo l'altra ai due lati di un sentiero centrale. Mi curvai su uno di essi e mi parve di una singolare profondità. Da ogni parte si vedevano degli emblemi di morte, crani, spalle, braccia e altri pezzi di scheletro ricoprivano il pavimento. Sul bordo di ogni sepolcro si ergeva un grande crocifisso e in un angolo scorsi una statua lignea di Santa Chiara. Non feci quasi attenzione a questi oggetti. Tutti i miei sensi si erano concentrati fin dal primo momento su una porta, che sembrava la sola uscita della grotta. Mi avvolsi rapidamente nel mio lenzuolo e, scuotendola bruscamente, cercai di aprirla. Il mio orrore fu indicibile quando mi accorsi che era chiusa dall'esterno. Allora, per la prima volta, mi sentii veramente morta. Ero condannata a morire di fame senza alcun mezzo di far conoscere la mia esistenza. L'idea del veleno che avevo ingoiato continuava a preoccuparmi. Pensai che la badessa si fosse sbagliata e invece del veleno mi avesse somministrato un potente narcotico. Mi parve di scorgere in questa circostanza un'insperata possibilità di salvezza. Raccolsi quanto fiato avevo in gola e gridai al soccorso. Nessuno poteva udirmi e nessuna voce rispose al mio richiamo. Un silenzio profondo e sinistro riempiva il sotterraneo e la salvezza mi apparve un'impresa disperata. Allora sfogavo la mia pena in lamenti e in urla bestiali, poi ricadevo a terra senza forze e sedevo, cupa e silenziosa, ai piedi della statua di Santa Chiara, con le braccia incrociate, inchiodata dalla disperazione. Passarono così molte ore tremende. Sentivo la morte scavare in me la sua strada e aspettavo ogni istante come l'ultimo della mia vita. Improvvisamente lo sguardo mi cadde su una tomba vicina. Su di essa stava posato un paniere che non avevo ancora notato. Mi alzai, corsi con tutte le poche forze che mi restavano e con quale furia non afferrai il paniere quando mi accorsi che conteneva una forma di pane e una bottiglia d'acqua. Mi gettai avidamente su quei miseri alimenti. Secondo ogni apparenza si trovavano nella caverna da qualche giorno. Il pane era duro e l'acqua marcita, ma mai cibo m'era sembrato più appetitoso. Calmata la fame, mi misi a fare congetture su questa nuova scoperta. Mi domandai se quel paniere fosse stato messo là proprio per me. La speranza mi faceva rispondere affermativamente, ma chi poteva immaginare che ne avrei avuto bisogno se qualcuno sapeva che ero ancora viva? Perché trattenermi in quel lugubre sotterraneo? Se mi si teneva prigioniera, che scopo aveva la cerimonia della mia sepoltura o se ero condannata a morire di fame? A chi dovevo quelle provviste? Le mie riflessioni furono interrotte da un rumore lontano di passi che si avvicinavano lentamente. Dei raggi di luce filtravano attraverso le fessure della porta. Il calpestio si fece più vicino, la luce più viva. Finalmente, e con indicibile gioia, sentii la chiave girare nella serratura. Convinta che la mia salvezza fosse vicina, mi lanciai verso la porta con uno strillo di giubilo. Si spalancò, ma tutte le mie speranze di libertà andarono in fumo quando apparve la badessa, seguita dalle quattro monache che erano state testimoni della mia morte simulata. Ciascuna portava in mano una torcia e tutte mi fissarono in un atroce silenzio. Atterrita, indietreggiai. La badessa mi gettò un'occhiata rabbiosa. «Fatevi coraggio. Non desidero la vostra morte, ma il vostro pentimento, la medicina che vi ho fatto bere non era un veleno, ma un narcotico. La mia intenzione era di farvi provare le torture di una coscienza colpevole che si vede sorpresa dalla morte prima di aver potuto espiare i suoi delitti. Tutta Madrid vi crede morta. I vostri parenti sono persuasi che non siate più in vita e le suore che hanno preso le vostre difese hanno potuto assistere al vostro funerale. Dubbi non ce ne sono, siete ben morta. Ho preso tutte le precauzioni perché il mistero resti impenetrabile». Questo esordio mi annunciava qualcosa di tremendo. Tremavo come una foglia e volevo parlare per disarmare la sua collera, ma un gesto della badessa mi impose il silenzio. Benché siano a torto, trascurate da molti anni e perfino combattute da alcune delle nostre sorelle fuorviate, che il cielo le rimetta sulla retta strada, è mia ferma intenzione far rivivere le regole del nostro ordine in tutto il loro rigore. Quella contro l'incontinenza è severa, ma non più di quanto meriti un peccato così mostruoso. Piangete, figlia, piangete, inzuppate il vostro pane di lacrime. Dio sa che avete dei buoni motivi per farlo. Incatenata in uno di questi piombi infernali, tagliata per sempre fuori dal mondo e dalla luce, senz'altro conforto che la religione, senz'altra compagnia che il rimorso. Ecco come dovrete marcire per il resto dei vostri giorni. Questi sono gli ordini di Santa Chiara. Piegatevi senza far rimostranze. E ora, seguitemi. Fulminata da questo barbaro decreto, sentii che le poche forze che mi restavano stavano svincolandosi dal mio corpo e non seppi rispondere altrimenti che crollando ai suoi piedi e bagnandoli di lacrime. La badessa, insensibile al mio dolore, si drizzò tutta pomposa e ripeté il suo comando con un tono che non ammetteva replica, ma la mia estrema spossatezza mi impedì di obbedire. «Se non avete pietà di me», gemetti, «abbiate almeno pietà dell'essere innocente la cui vita è congiunta alla mia. La mia colpa è grande, ma il mio bambino non deve soffrirne. Non ha fatto niente di male lui. Risparmiatemi per questa creatura che il vostro rigore condanna a morire ancora prima di nascere». La badessa indietreggiò bruscamente e mi costrinse a lasciare la veste che avevo afferrato come se il mio contatto avesse potuto infettarla. «Cosa?» vociò in un tono esasperato. «Cosa? Osate chiedere pietà per il frutto della vostra vergogna? Non aspettarti da me nessuna pietà, né per te né per il tuo feto. Prega piuttosto che la morte ti porti via prima di partorirlo. Nessuno ti assisterà nelle doglie del parto. Metti al mondo da sola il tuo aborto. Nutrilo da sola, curalo, seppelliscilo tu stessa e Dio voglia che muoia presto, perché tu non debba consolarti col frutto della tua perfidia». Questo discorso inumano, le minacce che conteneva, le atroci sofferenze che la badessa mi prediceva, i suoi voti di morte per il mio bambino che adoravo già prima della sua nascita, erano più di quanto il mio corpo stremato potesse sopportare. Cacciai un profondo lamento e ruzzolai senza conoscenza ai piedi della mia inesorabile nemica. Non so quanto tempo restassi in quello stato. Quando rinvenni, la badessa e le suore avevano già lasciato il sotterraneo. Non sentii nemmeno il passo dei miei carnefici che si allontanavano. Tutto era muto e tutto era terrore. Che la nipote del duca di Medina, fidanzata del marchese della Citernas, che una ragazza allevata nell'abbondanza e imparentata con le più nobili famiglie di Spagna, fosse diventata da un momento all'altro una prigioniera esclusa per sempre dal mondo, carica di catene e ridotta a doversi tenere in vita con i cibi più poveri. Il cambiamento era così improvviso e così inverosimile che finì col credermi in balia di qualche orrenda allucinazione. La durata di questa allucinazione mi convinse purtroppo che mi sbagliavo. Ogni mattino aspettavo un sollievo alle mie sofferenze, ogni mattino le mie speranze erano deluse. Alla fine rinunciai a qualsiasi idea di scampo, mi rassegnai alla mia sorte e non attesi altra liberazione che la morte. Questa disperante tortura del pensiero e le scene spaventose a cui avevo dovuto assistere affrettarono la mia gravidanza. Nella solitudine e nella miseria, abbandonata da tutti, senza l'aiuto di un medico, senza l'incoraggiamento degli amici, tra atroci dolori che avrebbero commosso il cuore più feroce, fui sgravata della mia povera creatura. Il bambino era nato vivo, ma non sapevo come avrei potuto mantenerlo in vita. Non potevo fare altro che bagnarlo con le mie lacrime, riscaldarlo nel mio petto e pregare per la sua salvezza. Ma anche questa disperata occupazione mi fu tolta. La mancanza di cure, la mia assoluta inesperienza, il freddo pungente del sotterraneo e l'aria malsana che i suoi polmoni dovevano respirare misero fine alla breve e infelice esistenza del mio bambino. Spirò poche ore dopo la sua nascita. e assistetti alla sua agonia con uno strazio di cui nessuna parola può dare un'idea. Il mio dolore fu inutile. La mia creatura era morta e tutti i miei singhiozzi non potevano rianimarlo neppure per un secondo. Stracciai la coperta che mi copriva e avvolsi il cadaverino. Me lo strinsi al petto col suo piccolo braccio che mi cingeva il collo e la sua guancia pallida e fredda che sfiorava la mia. Ben presto divenne una massa brulicante di putredine, un oggetto di nausea e di orrore per qualsiasi occhio, ma non per quello di sua madre. Camilla veniva una volta al giorno a portarmi da mangiare. Essa non cercava di accrescere ancora i miei tormenti con dei rimproveri. Mi invitava, è vero, a perdere ogni speranza di libertà e di felicità in questo mondo, ma mi incoraggiava anche a sopportare pazientemente le mie temporanee sofferenze e a trovare conforto nella religione. La badessa venne a trovarmi una sola volta e fu per strapazzarmi con la più implacabile crudeltà, per coprirmi di rimproveri e ironizzare sulla mia fragilità. E quando implorai pietà, sbraitò che dovevo rivolgermi al cielo, perché sulla terra davvero non ne meritavo. Fissò senza turbamento perfino il cadavere di mio figlio e sul punto di lasciarmi la sentì raccomandare a Camilla di inasprire ancora il rigore della mia prigionia. Donna spietata! Trascinavo così la mia disgraziata esistenza, ben lontana dall'abituarmi alla mia prigione. La guardavo ogni giorno con un orrore crescente. Il freddo mi pareva sempre più acuto e pungente, l'aria sempre più spessa e putrida. La febbre, che non mi abbandonava un istante, mi indebolì e rose il mio corpo. Non avevo la forza di alzarmi dal pagliericcio e muovere le gambe nemmeno nei limiti ristretti che mi lasciava la catena. Esausta, mezza morta e svenuta, avevo paura di abbandonarmi al sonno perché sapevo che sarebbe stato interrotto da qualche atroce insetto. Spesso, destandomi, scoprivo attorcigliati intorno alle mie dita i lunghi vermi germinati nella carne putrefatta del mio bambino. Allora schizzavo in piedi, inorridita, e li scuotevo lontano da me, tremando di tutta la mia debolezza di donna. Questa era la mia situazione quando Camilla cadde improvvisamente ammalata. Una febbre fortissima, che si temeva contagiosa, la trattenne a letto. Tutte le monache, ad eccezione della suora laica incaricata di assisterla, la evitavano con cura, temendo di infettarsi. Quanto all'inferma, che ormai delirava, non era certo in grado di occuparsi di me. Immaginai che le suore mi avessero dimenticata o che la badessa avesse dato l'ordine di lasciarmi morire. Quest'ultima ipotesi mi sembrava più probabile. Ma l'amore per la vita è così tenace che avevo paura di accettarla per vera. Avvelenata com'era da miserie di ogni genere, la vita mi era ancora cara e temevo di perderla. Ero rassegnata alla mia sorte e aspettavo ormai l'istante della morte quando il mio angelo custode, il mio amato fratello, arrivò appena in tempo per salvarmi. Voi già sapete quante obbligazioni io abbia verso la famiglia Villafranca, ma quel che non conoscerete mai è la misura della mia riconoscenza, che è infinita quanto la bontà dei miei benefattori. Lorenzo, Raimondo, miei cari, insegnatemi a sopportare con energia questo improvviso passaggio dalla sventura alla felicità. A questo punto Agnese terminò il suo racconto e il marchese replicò con parole piene di affetto. Lorenzo si dichiarò felice di vedersi alla vigilia di una così stretta alleanza con un uomo per il quale aveva sempre avuto la stima più grande. La bolla papale aveva liberato completamente Agnese dai suoi obblighi religiosi e il matrimonio fu celebrato non appena i necessari preparativi furono ultimati. Soddisfatti i debiti di riconoscenza, Agnese ebbe campo libero per proseguire la realizzazione del suo progetto favorito. Abitando nella stessa casa, Lorenzo e Virginia stavano sempre insieme e più la vedeva, più Lorenzo si convinceva dei suoi meriti. Tuttavia, nel suo animo, questi sentimenti non avevano lo stesso ardore del suo amore per Antonia. L'immagine di questa ragazza stupenda e sfortunata era sempre viva nel suo cuore, più tenace degli sforzi che Virginia faceva per cancellarla. Ma quando il duca propose un'alleanza che sembrava tanto desiderare, suo nipote si guardò bene dal rifiutarla. Chiese lui stesso la mano di Virginia al marchese di Villafranca e la sua domanda fu accettata con entusiasmo e riconoscenza. Virginia divenne sua moglie e non gli dette mai motivo di rimpiangere la sua decisione. A poco, il ricordo di Antonia si cancellò e Virginia divenne la sola padrona di quel cuore che meritava di possedere senza rivali. Per il resto della loro esistenza, Raimondo e Agnese, Lorenzo e Virginia furono felici quanto possono esserlo delle creature mortali nate per essere preda delle sventure e trastullo della sorte. E se dovettero sentire ancora il vento passeggero del dolore, non fu più per loro che una dolce brezza che soffia l'estate dal mare.